Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko, agli Erin Afrofunk che sono in collegamento telefonico con noi, o almeno alcuni di loro. Ciao ragazzi, mi sentite? Ciao! Ciao, ciao. Innanzitutto grazie per questa chiacchierata che ci andremo a fare. Vi chiedo di presentarvi e poi iniziare con la prima domanda, ovvero se avete voglia di raccontarci un po' chi sono gli Erin Afrofunk, come nascono e come arrivano ad oggi a Bologna. Intanto grazie a voi. Io sono Jonathan, come dire, siamo in presenza io e Filippo, diciamo i due fiati, i due sassofonisti, sax alto e sax baritano. Io ti farei una breve sintesi di come appunto siamo nati, insomma chi siamo e cosa abbiamo fatto fino adesso, e poi cederei la parola anche a Fili perché sicuramente ha tante cose da dire. Allora, noi siamo nati come un ensemble, no, di musicisti, come ensemble di musicisti, diciamo che siamo radicati qua a Bologna, quindi siamo un po' del panorama bolognese. Siamo nati più o meno a febbraio-marzo 2022, abbiamo volto in questo arco di anno, insomma da febbraio 2022, soprattutto nel periodo estivo, diversi concerti qua a Bologna e non solo, tipo al Dumbo il 1° maggio, alle serie di Giardino Margherita. Fuori abbiamo suonato a Montecchio e abbiamo fatto anche in altre location delle piccole performance. Fondamentalmente la nostra musica si centra sullo stile afrofunk. Dico afrofunk perché è un po' il repertorio che compone i nostri brani, no? Che sono tutti originali, scritti e arrangiati da noi, da componenti del gruppo, in particolare da me, da Filippo, da Andrea Lazzari e da Valentino Pirino. Stay in Blood, l'EP che abbiamo registrato presso lo Spectrum Studio a Bologna da Roberto Passuti, è il nostro primo lavoro. L'abbiamo fatto in collaborazione con Devon Mice perché, insomma, all'interno della nostra musica c'era l'idea di collaborare con artisti, e abbiamo collaborato con questo artista e cantante di origine nigeriana che ha scritto i testi sulle nostre parti e sui nostri titoli dei quattro brani che abbiamo inserito nell'EP, e diciamo che Devon ha condito un po' lo stile, insomma, il sound, le composizioni della band. Attualmente cosa stiamo facendo? Ci stiamo esibendo dal vivo per raggiungere, insomma, il pubblico, non solo all'interno degli eventi organizzati qua a Bologna, ma la prospettiva di allargare il circuito nostro promozionale, insomma, in qualche modo, e il nostro sound altrove. Ecco, a questo punto cederei la parola a Filippo. Citerei chi siamo. Allora, Filippo Cassani al sax baritono, Jonathan Lazzari al sax alto, Valentino Pirino alla chitarra, Andrea Lazzari alle tastiere, Federico Magazzeni al basso e Marcello Pala alla batteria. Nel primo EP che abbiamo prodotto ha collaborato con noi Devon Mice alla voce. Hai detto tutto, praticamente. No, perché c'è tanto altro da dire. E diciamo, sì, abbiamo presentato, esatto, mi state anticipando già tutte le domande, quindi io vi lascio parlare tranquilli. E abbiamo fregato, esatto. Abbiamo presentato a febbraio l'uscita, abbiamo presentato a febbraio allo Sghetto l'EP Same Blood, che è reperibile adesso su tutte le piattaforme digitali. Siamo molto carichi sia per portare avanti appunto questa presentazione dell'EP, sia aperti a nuove collaborazioni con altri artisti del panorama, insomma, sia bolognese ma anche non solo, ecco. Vi faccio una domanda io rispetto alla collaborazione, quindi molto centrale anche all'interno del vostro EP: com'è andata con Devon Mice questa collaborazione? È andata molto bene, e ci siamo proprio trovati con l'innesto, diciamo, della sua vocalità, dei suoi testi sulle sonorità che cercavamo. Insomma, è stato un incontro che ha funzionato molto bene. Tra l'altro mi ricordo il 1° maggio, che era secondo me il 2022, 1° maggio al Dumbo, primo concerto senza mascherine, tra l'altro, che si potevano togliere, e lui ha presentato, è arrivato sul palco carichissimo dicendo: immaginate che James Brown e Fela Kuti facciano un bambino insieme. Eccoci, siamo gli Erin. Beh, non male, direi, comunque, come presentazione. Infatti, presentato così, adesso bisogna stare all'altezza di questa presentazione. No, siamo veramente un bel collettivo, come diceva Filippo. Ci siamo trovati e, diciamo, corrispondiamo anche molto al nome che ci siamo dati, perché Erin in lingua Yoruba significa risata, sorrisi, e noi questa cosa qua la condividiamo. Ci siamo visti anche nel video che praticamente ci hanno fatto allo Sghetto, che uscirà tra poco. Il bello di questo collettivo qua è che suoniamo sempre con il sorriso. Quindi questa è una cosa che nella musica secondo me si incontra non facilmente. Io poi personalmente devo dire grazie Filippo, perché appunto quando ci siamo trovati ho cercato appunto di radunare insomma persone come dire con un certo valore musicale, ma anche con un certo valore dal punto di vista umano, come dire, siamo riusciti a incontrarci, questa è la cosa più bella, insomma. Ragazzi, io vi ringrazio, chiaramente invito anche tutte e tutti a seguirvi sulle vostre pagine social, anche per rimanere connessi un po' con i vostri spostamenti, i prossimi appuntamenti. Auguro tanta fortuna agli Irina Afrofunk. Grazie. Grazie mille, grazie a Radio Fujiko, grazie mille. Grazie, ciao, grazie.